nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica e ben trovati a Nessuna è Perfetta, la trasmissione dell'altra domenica di Radio 24 che ha la smisurata ambizione di demolire il mito del multitasking, la grande fregatura per le donne, e avremmo anche un'altra ambizione, quella di farvi compagnia domenica mattina, magari parlando anche di qualche problema di lavoro che vi siete portati dietro per la settimana. Come sapete, ogni domenica noi individuiamo la donna imperfetta della settimana, e questa domenica la donna imperfetta è Alice Sabatini, la nuova Miss Italia 2015. No, vorrei chiarire subito, non ho niente in contrario per la bellezza, per i concorsi di Miss Italia, non è questo il punto, anche se sotto sotto io la penso come Albertina Marzotto, che è una presenza molto costante sui social media, su Twitter, e proprio su Twitter ha scritto: se mia figlia fosse una finalista di Miss Italia penserei di aver sbagliato ad educarla. Ma questo lo penso io, non siamo qui a parlare del concorso. Comunque, in realtà la bella giovane Alice Sabatini è la nostra donna imperfetta della settimana perché, come tante di noi, ha fatto un imperdonabile errore. Cioè, è partita bene, ha detto una cosa giusta e poi si è persa per strada e ha fatto autogol, e questo succede a tantissime di noi. Individuiamo la cosa giusta da dire, partiamo con tutto a posto e poi per strada diventa un boomerang. Perché? Sentiamola perché. Nel 42, per vedere realmente la seconda guerra mondiale, visto che i libri parlano pagine e pagine, la volevo vivere, però tanto sono donna, quindi il militare non l'avrei fatto, sarei stata a casa con la paura di... Alice, è ripartita benissimo. Avevi detto una cosa che a nessuno probabilmente sarebbe venuto in mente di dire in quel contesto a Miss Italia. Quale periodo storico sceglierei per vivere? Ma vivrei nel 1942 perché mi interessa quel periodo, un periodo di gente tosta, perché chi si è fatto le ossa negli anni della guerra poi ha dimostrato una tempra che altre generazioni più fortunate non hanno dimostrato, e quindi è ripartita proprio bene. Avevi detto una cosa spiazzante, non banale, poi zac, mi sei cascata sulla banalità, un po' diciamo anche sulla superficialità di dire è tanto essendo donna, il che è un po' come dire tanto mi piacerebbe andare a vedere la Siria di Damasco da cui partono i profughi, tanto se sto in hotel non mi bombardano, o cose analoghe. Alice è la donna imperfetta della settimana perché tutte noi imperfette, una volta o l'altra, partiamo bene, diciamo la cosa giusta e poi per strada ci perdiamo tutto, o peggio ancora, facciamo un sacco di errori. Siete d'accordo? Fatecelo sapere. Fateci sapere che cosa pensate e chi proporreste come donna imperfetta della settimana prossima a nessuna è perfetta @radio24.it, oppure mandateci un SMS al 349-238-6666. Potete anche scriverci. Pagina Facebook e anche su Twitter, naturalmente. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da dimenticare. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da desiderare. E bellezza, Miss Italia, è stata l'inizio della nostra puntata e continuiamo a parlare di questioni di bellezza legate al lavoro. Vi ricorderete la vicenda di Charlotte Proudman? Qualche giorno fa se n'è molto parlato, perché lei, bella avvocata londinese con un master da finire a Cambridge, chiede l'amicizia su LinkedIn a un collega, Alexander Carter Silk, 57 anni, il quale le scrive su LinkedIn: Charlotte, non sarà politicamente corretto dirlo, ma la foto del suo profilo è favolosa. Mai vista un'altra così. A mani basse vincerebbe il primo premio. apriti cielo, benché l'avvocato si sia, come dire, parato un po' le terga dicendo non sarà politicamente corretto dirlo, comunque Charlotte non gliel'ha fatta passare e non solo gli ha risposto duramente su LinkedIn dicendo il suo messaggio è offensivo, io sono collegata per lavoro e non per essere trattata come un oggetto da uomini sessisti, ma ha anche scritto una lettera al capo dello studio dell'avvocato Alexander e ha dato molte interviste. Sulla questione le opinioni si sono ovviamente divise, c'è chi pensa che Charlotte ha fatto bene in modo che in futuro avvocati e anche altri siano attenti a trattare le colleghe come oggetti sessisti, c'è chi invece pensa che l'avvocatessa Charlotte ci ha un po' marciato e ha cercato visibilità approfittando dell'incauta dichiarazione del suo collega avvocato. E su questo vorrei proprio sentire il parere del nostro agente provocatore di questa settimana. Roberto D'Agostino, benvenuto, buona domenica. Buongiorno a tutti. Beh, la bellezza aiuta o è un danno? Beh, intanto io vorrei precisare alcune cose riguardante questa avvocatessa. Questa signorina ha una doppia faccia. Da una parte su Facebook si permette di rifilare ai maschi definizioni che non sono alla pari con stunning picture, che vuol dire un'immagine stupefacente, bella, meravigliosa, cioè tranquilla, cioè no, fa piacere un complimento se cioè, è educato. Non è che gli ha detto guarda, hai delle belle tette, eccetera, eccetera. E invece lei fa hot stuff in inglese, tradotto in italiano significa sia proprio buono, è una cosa. Quindi molto due pesi e due misure. Ma no, lei è una paracula questa qua, ci sta un problema. Allora, nel campo del corteggiamento ci stanno, è difficile capire, c'è un punto in cui divide il corteggiamento da quello che è la molestia, no? Chiaramente non mi sembra molto difficile poi comprenderlo. Quando è entrato in ballo il politicamente corretto negli anni 70 in poi, la cosa è diventata un po' più complicata, perché noi eravamo rimasti che la mano sul culo era quella, diciamo, a molestia, no? E invece se una bella ragazza, non mi sembra che molestava nessuno, ma io sogno che qualcuno mi si avvicini e mi dica sai che sei veramente un bell'uomo, ma io pagherei per avere un le ascoltatrici di Nessuna è perfetta sono avvisate, se incontrate D'Agostino fategli un complimento, ecco. Guarda Maria, c'è un femminismo nazista in giro, no? Di quelle cozze, di quelle brutte, ok, quello si capisce. Poi sta quelle belle, che invece, come ho visto, io feci all'epoca Mutande Pazze nel 90. L'indimenticato film Mutande Pazze. Sì, però io lavoravo in Rai e ho visto come la donna riusciva a sfruttare la sua capacità di seduzione. Cioè la donna quando vuole, quando decide di ottenere quello che, come gli uomini in altri mezzi, la donna usa la sua seduzione per ottenere ruoli, cattedre, poltrone, cioè usa la sua vagina come un grimaldello per aprire le porte del ci sono anche punti di vista. Quanti esempi abbiamo di questo? Quante attrici sono sposate di produttori? Tutti innamorati dei produttori? Carlo Ponti era un bell'uomo. Eh beh, ma ci sono anche maschi come, per citarne uno, Porfirio Rubirosa, che si sposarono miliardari, Barbara Hutton, per dirne una. Tu sai cosa aveva Porfirio Rubirosa? No, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere. La capacità di farti felice in camera da letto, cosa vuoi non di ha più? Prezzo, non ha prezzo. Non so quanti soldi puoi avere. Però una cosa bisogna dirla, ci sono delle ragazze, magari meno veglie e furbette dell'avvocatessa londinese che abbiamo citato, che vivono con disagio il fatto che magari un capo in ufficio le corteggia pesantemente e temono magari di non fare. Non c'hanno capacità di rispondere. Ci fermiamo qui, adesso il traffico. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Secchi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori, Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno, nessuna è perfetta. Nella prima parte del programma avete sentito, prendendo spunto dalla vicenda della giovane avvocatessa Proudman che ha denunciato un collega, reo a suo avviso di aver fatto dichiarazioni sessiste sul suo profilo LinkedIn, ci siamo chiesti, ma essere belle nel mondo del lavoro è valore aggiunto? È una discriminante? Ecco, io vorrei parlarne con una donna sicuramente bella, sicuramente intelligente, che su questo tema avrà avuto modo nei tanti anni di lavoro in TV e al cinema di fare una riflessione, perché essere belle nel mondo dello spettacolo rappresenta una carta in più da giocare, ma ci sono anche i lati negativi. Mara Venier, benvenuta a Nessuna è perfetta. Grazie Maria, grazie. Felice di essere con te e con i tuoi ascoltatori. Devo dire che il tema è abbastanza delicato, nel senso che sicuramente la bellezza può essere un valore aggiunto nella vita di ognuno di noi, non soltanto di persone che fanno lo spettacolo. La verità è che poi in maniera parallela ci deve essere anche qualcosa in più. Ne abbiamo migliaia di esempi di giovani donne che cominciano a fare il lavoro, parlo sempre nell'ambito dello spettacolo naturalmente, per la loro bellezza, che però poi rimane lì, insomma il fine a se stesso. Io credo che ci voglia poi una grande volontà, una grande tenacia e soprattutto prepararsi molto bene, nel senso studiare. Se no non si resiste per anni, né in TV né al cinema. Mi ha colpito una cosa che avevi detto tempo fa. Pensavo di essere invecchiata, avevi detto, di non piacere più. Pensavo che c'erano quelle più giovani e più belle. E poi hai annunciato che avresti abbandonato la TV. E invece no, e invece stai vivendo una nuova stagione felicemente professionale, per esempio a Striscia la Notizia da Antonio Ricci. Pesa continuare a essere belle, a curarsi, a prendersi cura di sé anche quando non si hanno più 30 anni o 40? Guarda Maria, io purtroppo sono un esempio poco esemplare, nel senso che io intanto non mi sono mai ritenuta bella, non sono sempre vista insomma abbastanza bruttina, e lo sono anche stato soprattutto da ragazza. Poi diciamo insomma che le cose sono cambiate, mi sono vista un tipo. Il mio tra virgolette successo televisivo, l'affetto delle persone mi hanno resa un po' meno insicura, ma sta gran bellezza non mi sono mai sentita. La mia vita poi è sempre molto strana, nel senso che dopo aver sofferto per amore a 50 anni ho incontrato l'uomo della mia vita, in un'età quando ogni donna pensa che tutto sia finito, e lo pensavo anch'io. Però se non fossi stata una posso dire, se non fossi stata una donna bella anche a 50 anni, ma ti sarebbe capitato lo stesso? Nicola chiedo. Dice che l'ho conquistato con la mia simpatia e con l'essere me stessa, cioè una persona assolutamente normale, con una pasta e fagioli meravigliosa che ho cucinato per lui. Per cui devo dire che lui ha dato poca importanza a quella che sono io fisicamente. Un giorno ci darai la ricetta con il tuo libro, una passeggiata tra i miei ricordi. Dai, a fine ottobre esce il libro Amori della zia, dove c'è anche la ricetta della pasta e fagioli. Poi è vero, Maria, che quando io feci quelle dichiarazioni 3 anni fa, ok, è finita, vado in pensione, perché la verità è che poi prima che lo dicano gli altri lo dico io, nel senso che poi sono una che sta con i piedi per terra e anche con un grande senso dell'ironia che consiglio a tutte le donne. La verità è che poi con la Rai era andato in un certo modo, improvvisamente io non avevo più nessuna offerta di nessun programma, per cui avevo messo le mani avanti dicendo vabbè, è finito, ho fatto il mio percorso. Poi invece improvvisamente è rispuntata Maria. È arrivata Maria, io devo molto a Maria, io la chiamo il mio angelo. Maria mi ha chiamato per una puntata di Tu sì che vales, si è divertita lei, il pubblico si è divertito ed è cominciata davvero una nuova stagione. Quindi mai fermarsi a un primo momento di depressione. Maria, senti, mai. ecco. mai, bisogna andare avanti. Sei circondata da Marie in questo momento tu. Senti, senti Mara, prima il nostro agente provocatore della puntata, Roberto D'Agostino, diceva, vabbè, ma insomma, le donne ci marciano sulla bellezza, quante attrici hanno sposato i loro produttori, e sempre citando il caso dell'avvocatessa che su LinkedIn aveva accusato di... Beh, ma mi sembra esagerata questa avvocatessa. Questa avvocatessa, anche secondo te, ha cercato un po' di pubblicità? Sì, sessista di che? Soltanto perché ha detto sei molto affascinante o una cosa molto simile. C'è mai stata una volta in cui hai messo a posto uno che non ti piaceva, e come ci sei riuscita? Perché può essere utile per chi ci ascolta. Tu dicevi ci vuole senso dell'umorismo. C'è stato una volta che con una battuta hai, diciamo, rimesso a posto suo uno che non si stava comportando in maniera corretta? Ma guarda, ti devo dire la verità, sono anche capitati degli episodi, soprattutto quando faccio più cinema, però così, dove mi hanno messo in imbarazzo. Io allora, insomma, non ero la Mara di adesso, nel senso che adesso non mi tengo nulla e dico sempre quello che penso. Qualche episodio è anche accaduto e mi sono anche sentita strumentalizzata in qualche maniera da qualche regista e anche da qualche produttore. Diciamo poi che il mio senso così pratico delle cose ha sempre reagito in una maniera soft, senza mai dare... Nel senso che il produttore ti aveva detto, se vuoi fare il film vieni a letto con me. Sì, praticamente sì, ma la cosa paradossale è che poi quel produttore, che mi aveva fatto capire chiaramente insomma che se ci fosse stato qualcosa avrei fatto quel film, poi invece sono stata voluta fortemente dal regista e il film è fatto lo stesso, perché il regista si è impuntato e il produttore ti guardava. No, il produttore ha detto non la voglio assolutamente, tutte tranne Mara Venier, ma il regista era un regista importante, per cui mi ha in qualche maniera imposto, perché ero giusta per quel ruolo. Poi sai, Maria, alla fine con l'età, l'esperienza, la vita, i figli, le storie d'amore, poi alla fine una reagisce subito, non bisogna assolutamente, nessuna donna deve permettere a nessun uomo di metterla in difficoltà. Questa è un po' quella che è diventata la mia regola. Ed è bene ricordarlo. C'è un'ultima cosa che ti vorrei chiedere. Una ricerca dell'Università del Texas ha chiarito qualcosa che forse un po' si sapeva. I belli guadagnano il 4% in più rispetto ai brutti, e le belle addirittura l'8% in più. Questo calcolo dal punto di vista economico? Sì, economicamente. L'economista ha calcolato che le donne belle guadagnano l'8% in più, gli uomini il 4% in più rispetto ai colleghi meno avvenenti. Questo sicuramente... Ma come lo guadagnano? In quale modo? Probabilmente perché riescono a spuntare degli stipendi diversi. Nel mondo dello spettacolo questo sicuramente conta, o no? Sicuramente, diciamo che una donna bella ha più chance, perché una donna bella può lavorare di più, soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto ballette, veline, per cui ci sono delle opportunità molto più allettanti negli ultimi anni che, se vogliamo vedere, che negli anni 50 o 60, dove una donna bella però doveva anche dimostrare di avere talento. Vedi Sofia Loren, ha sposato Carlo Ponti, però Sofia è la numero uno insieme ad Anna Magnani. Ed è durata negli anni. Esatto, però poi abbiamo anche delle donne che, come Anna Magnani, che per me è un idolo, perché è stata una grande donna, una grande attrice, non era di questa bellezza, no? Così, era una donna però che aveva una tale personalità. Io credo che conti la personalità. Per ritornare al tuo discorso, che guadagnano di più, forse hanno più possibilità, forse anche una che vuole fare l'impiegata, il suo capo ufficio ha forse un occhio di riguardo, se è una particolarmente avvenente e bella. Però insomma, io credo che nella vita bisogna dimostrare poi il talento, la serietà, io credo che conti questo. Bisogna... Ti farai fotografare a 77 anni come ha fatto Jane Fonda sulla copertina, dicendo guardate, ho 77 anni, sono ancora una bellissima donna e sono contenta di essere qui. Guarda, io l'ho vista, ho fatto una cena con lei, con Jane Fonda, 3-4 anni fa a Roma, proprio l'ho incontrata a una cena, è una donna simpatica con un corpo pazzesco, ma lei è la regina dell'aerobica, non mangerà. Io ho 77 anni, non so come sarò, ma ma certe paste e fagioli a tuo marito Nicola Carraro continuerai a farle, eh? Continuerò a farla sicuramente, perché quello è il senso della vita. Quando mi metto a dieta cominciano a dirmi: mamma mia, come stai male, come sei sciupata. Per cui ti devo dire, io sono una donna godereccia e arrivata alla mia età, amore mio, continuo a prendermi tutto quello che mi piace. La serenità interiore, la pace con te stessa conta molto di più del fisico, della magrezza e di tutte queste storie qua. La bellezza è qualcosa che ha a che fare con il tuo io, con la tua anima, quella è la bellezza. E conta anche appunto prendersi un po' allegramente in giro, cosa che consigliamo, sì, consigliamo all'avvocatessa, all'avvocatessa sì, che ha scritto su LinkedIn. Sì, grazie. Si prendesse meno sul serio l'avvocatessa, va, si concentrasse sul lavoro. Grazie Mara. Grazie a te Maria, è stato un piacere. Buona domenica. Grazie, grazie, ciao. Ciao. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa, a tra poco. Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo, terza parte di Nessuna è perfetta. È il momento, lo sapete, della lettera della settimana. Questa volta ci scrive Alessia. Ho 35 anni, dicono che sono una bella ragazza, lavoro nel mondo della finanza. Mi sono accorta che il fattore estetico suscita diffidenza, diffidenza tra le mie colleghe, e in più mi crea problemi con gli uomini. Il fatto è che loro ci provano e poi restano delusi. Questo altera i nostri rapporti. Io mi vesto in maniera appropriata, porto risultati professionali, ma avverto la costante fatica di vivere e lavorare sempre sotto giudizio. Negli occhi degli altri leggo: sarà davvero brava? O le porte le si aprono perché è carina? Cara Alessia, i due esperti che potranno aiutarti questa settimana sono veramente due esperti. Sono l'amministratore delegato di L'Oreal Italia, dunque il regno della bellezza, Cristina Scocchia, benvenuta, buona domenica, e Tommaso Arenare, il partner di Egon Zander, vale a dire la società di consulenza a cui fanno riferimento tutti i più grandi manager nel mondo. Buona domenica. Buona domenica a tutti e due. Portare risultati e vestirsi in modo appropriato non basta farsi prendere sul serio quando si è belle. Cristina Scocchia, è così? Ma io credo che in un contesto di lavoro veramente meritocratico, in un contesto in cui le responsabilità vengono assegnate sulla base delle qualità e del talento delle persone, non ci sia spazio per questioni di questo tipo. Ovviamente purtroppo ogni tanto questo succede. Io credo che le donne debbano superare i pregiudizi con competenza e anche con resilienza, che è una capacità molto tipica di noi donne, la capacità di superare comunque le difficoltà, di superare anche le discriminazioni, quelle velate, che proprio perché velate non è detto che siano meno forti e meno pressanti delle altre. Anche se ti vedono bella, ma poi scoprono che sai fare le cose, a quel punto devono prendere atto di questo. Tommaso, qual è l'errore che in questi casi una donna commette più facilmente? Che fa? Si irrigidisce, diventa sospettosa? Maria, mi viene da segnalare un paio di riflessioni poste da Alessia. Ci sono almeno due piani di lettura della sua bella lettera. Da un certo punto di vista lei parla del sentirsi giudicati. Sentirsi giudicati è quasi indipendente dall'aspetto fisico della bellezza. Poi c'è l'aspetto: sono bella e quindi sono ancor più in difficoltà. L'errore che si può fare è non cogliere gli elementi inconsapevoli. La nostra vita quotidiana è fatta di tanti, tanti aspetti che sfuggono alla superficie. Proviamo a vedere i due che in questo caso agiscono e cosa si può fare. Vivere e lavorare sempre sotto giudizio, scrive la nostra ascoltatrice. Questo non dipende dalla bellezza, come dicevo, ma dipende da tante altre cose. È importante accorgersi che è un elemento inconsapevole e sul quale si può fare molto. Sarebbe troppo lungo della nostra bella domenica insieme dedicarsi a capire come. Diamo una cosa sola, guarda, un consiglio. Io ho imparato semplice. Sulla mia pelle, ci ho messo 9 anni di psicanalisi, non è un consiglio da domenica mattina e non si può consigliare la psicanalisi alla radio, e no, infatti non lo faccio, però porto la mia testimonianza. A cogliere il mondo inconsapevole ti aiuta poi a lavorare. L'altro elemento è trasformarlo in un vantaggio, quello della nostra Alessia. Esiste tutta una letteratura che segnalo, ma molto semplice, sui pregiudizi inconsapevoli, ne parlava Cristina. Uno di questi pregiudizi è il cosiddetto effetto alone, che in inglese si chiama halo effect. Al contrario, una persona di bello aspetto, se accompagna questa bellezza con alcuni altri tratti, può girarlo a suo favore, perché generalmente le persone belle piacciono di più, scusate la banalità. Certo, lo dicevamo prima, sono addirittura pagate di più, secondo uno negli studio Stati Uniti sono secondo pagate di uno più. Studio americano. Cristina Scocchia, Alessia dice gli uomini ci provano. Nel mondo della finanza immagino che ne incontri tantissimi, ci rimangono male quando io non ci sto, e questo incide sui miei rapporti anche professionali. Che consiglio darle? Il consiglio è quello di andare al di là della superficialità e di cercare di riportare sempre l'attenzione sulla professionalità. Quello che è importante sono i risultati che si portano e le qualità con cui si portano questi risultati. Quindi il mio consiglio è quello di cercare di riportare sempre il focus sui progetti concreti, sulle decisioni concrete, sulla capacità concreta che si ha o no di motivare le proprie persone. Quando ci si muove dal piano della superficialità al piano della professionalità, emergono il talento, emergono i meriti, emergono le capacità, e in questo caso le donne non sono affatto penalizzate. Come amministratore delegato donna di una multinazionale della bellezza, come si vive questo, come dire, questo costante attacco al fatto che le donne nel mondo del lavoro sono ancora oggetto di, talvolta, no? di pressioni sessiste? Io ho avuto la fortuna di lavorare in aziende multinazionali molto meritocratiche, dove il talento contava senza nessuna discriminazione né di genere né di nessun altro tipo, per cui devo essere sincera, non ho mai avuto bisogno di affrontare queste tematiche né in maniera diretta né in maniera velata né con i colleghi né con i capi. È oggettivamente vero che comunque in talune aziende, in taluni contesti lavorativi ancora succede. In questo caso il mio consiglio è quello di cercare di dimostrare il proprio valore, non farsi scoraggiare da questi pregiudizi. Purtroppo accade ancora che in un consiglio di amministrazione, piuttosto che in un'azienda, piuttosto che in un altro tipo di lavoro, ci siano un po' di resistenze iniziali nei confronti delle donne, soprattutto se giovani. Però cioè si dice quella è carina, non è brava, quella è carina quella. Esatto. Ed è sminuire già il valore che una invece professionalmente potrebbe avere, non sempre ce l'hanno. Assolutamente, ma i pregiudizi, come dicevo prima, vanno combattuti con la competenza e con la capacità di non farsi abbattere da questi pregiudizi, da questi stereotipi. Bisogna guardare al proprio obiettivo, bisogna raggiungerlo con costanza e con determinazione. Solo in questo modo si riesce a superare questa resistenza iniziale e ci si riesce a integrare in qualunque contesto competitivo. Tenere duro. Beh, insomma, Cristina Scocchia è una che da ragazza, per darvi l'idea del personaggio, lavorava, faceva già un stage in una grande multinazionale a Roma e studiava a Milano, e allora non c'era il Frecciarossa, quindi si faceva 6 ore di treno, ma ha tenuto duro e ha fatto tutte e due le cose. Tommaso Arenare, nella lettera di Alessia c'è una cosa che è una realtà: l'essere belle suscita diffidenza nelle colleghe. Tommaso Arenare è uno che ha fortemente voluto valore di, oltre a essere il partner di Egon Zender. La diffidenza nei confronti delle belle nelle altre donne c'è, non c'è dubbio. La diffidenza nei confronti delle belle c'è nelle donne come c'è negli uomini verso gli altri uomini, che ci suscitano invidia. La mia enfasi è: scopriamo insieme i pregiudizi che limitano il nostro agire. Lo dicevo prima, ma in questo caso la diffidenza è proprio un esempio tipico. Si può lavorare molto per fare bene, imparare a accorgerci di questa diffidenza. Alessia stessa lo saprà prima di cominciare a intervenire in una riunione, che magari da più giovane, come ci sono numerosi aneddoti di tante donne straordinarie che oggi raccontano quando veniva chiesto loro di fare il caffè, e le più brave, spigliate, quelle che hanno avuto più successo, ci hanno scherzato sopra, hanno riso sulla cosa. Lo faccio io questa volta, però la prossima volta presidente lo fa lei. Tocca a te, ecco, esatto. Bisogna sapere questo. E poi, lo dicevo, se la enfasi e la capacità è di rigirare in modo positivo il vantaggio, poi, come diceva Cristina, il merito, il talento oggi emergono, oggi il merito e il talento non sono più un tabù come una volta si faceva fatica a parlarne, eccetera. Oggi il merito e il talento sono alla portata di molte più persone di una volta. Bisogna ancora lavorare, non è finita, quindi la diffidenza si supera rendendosene conto, giocandoci su all'inizio e dopodiché andando dritte per la propria strada. Ma Alessia, mi raccomando, se puoi, cerca di lavorare sulla paura dei giudizi degli altri, perché quella è una cosa che, se anche non fossi così di bello aspetto come racconti, avresti o avremmo lo stesso tutti. E lavorare sul giudizio degli altri è la prima molla che poi ci permette, cioè, diventare indifferenti o diventare consapevoli ma indifferenti al giudizio degli altri. Poi non farci avvelenare la giornata In questo le donne, dico solo questa cosa che secondo me è importante, ancora una volta possono essere un esempio, perché di questi temi non si parlava una volta, ma gli uomini non è vero che non ne soffrano. Le donne danno l'esempio e ci portano a ragionare, a una bella trasmissione con tante persone che ci ascoltano, di temi inconsapevoli che una volta invece venivano lasciati, per l'appunto, sotto il tappeto come la polvere. Non più. Cristina Scocchia, l'ultima domanda, ma un capo, nel caso per esempio un capo donna, come fa ad accorgersi che in una situazione di ufficio c'è qualcuna che soffre? Stiamo parlando di una situazione di disagio perché una si sente messa in un angolo perché è bella, ma ce ne possono essere altre. Io credo che il leader di un'organizzazione abbia la responsabilità di dare il buon esempio, abbia la responsabilità di incoraggiare degli atteggiamenti corretti, abbia la responsabilità di essere in contatto con tutta la propria organizzazione per capire se ci sono delle aree di difficoltà, di sofferenza, in modo tale che queste possano emergere e si possano risolvere. E perché come si fa concretamente? Lei come fa, per esempio? Stando vicino alla mia organizzazione, parlando con le persone, cercando di capire se ci sono persone che magari hanno dei momenti difficili o delle situazioni conflittuali in ufficio. Io credo che la vicinanza, l'empatia rispetto alla propria organizzazione siano importantissimi. Non dimentichiamo che alla fine il leader di un'organizzazione ha la responsabilità di far sì che il valore del merito e il valore della differenza diventino valori centrali. Lo si fa ascoltando le proprie persone, lo si fa dando il buon esempio, lo si fa cercando di cambiare le situazioni quando queste non sono positive. Quanti minuti passa Cristina Scocchia davanti allo specchio ogni mattina prima di andare in azienda e dare il buon esempio, lei che lavora appunto come capo l'Oreal? Poi lo devi chiedere anche a me dopo. Certamente. Purtroppo molto pochi, perché sono sempre di fretta, e quindi purtroppo molto pochi, però va bene così. È la mia routine molto sprint della mattina. Tommaso Arenari, quanti minuti passa? Un uomo molto vanitoso, Tommaso Arenari. Troppi, no, non per quello. Mia moglie e i miei figli mi reclamano spesso, e la mattina c'è da accompagnare a scuola, che è una cosa a cui cerco di non mancare mai quando sono a Milano, ma allo specchio e farmi la barba è nella mia lentezza. Però la barba, poi ora c'è qualche, insomma, bisogna guardarsi un po', sistemarsi un po' con cura. Però voglio dire, è bello vedere che anche oggi degli uomini si può parlare di questi aspetti, no? Perché e soprattutto ci si può scherzare sopra. Grazie a Cristina Scocchia, grazie a Tommaso Arenari, buona grazie domenica. Grazie a voi, buona domenica. Grazie. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa, a tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento. Nessuna è perfetta. Eccoci, quarta e ultima parte di Nessuna è perfetta. Parliamo di bellezza e di effetto della bellezza sul lavoro. Naturalmente ci sono anche gli aspetti negativi, li abbiamo visti prima, e li ritroviamo in un libro che è appena stato pubblicato da Chiare Lettere, Toglimi le mani di dosso. A scriverlo è una giornalista freelance, Olga Ricci, che ha anche creato un blog, Il Porco al Lavoro, nel quale ha raccontato la sua storia di moleste, violenze, ricatti in un giornale di provincia. Noi ne parliamo ancora col nostro agente provocatore, che è sempre qui con noi, con Roberto D'Agostino. Ne hai sentito parlare? Tutti noi abbiamo lavorato, Maria, in sì. giornali, dalla mattina alla sera, abbiamo visto le cotte di crude. Ma sono cose normali, uno poi mette alto là queste persone, cioè, stanno, se poi questo insiste, ci sta, c'è la, chiami, vai in questura, vai in commissariato e fai una denuncia. Ma insomma, non mi sembra una cosa da farci tutto questo dramma, no? Ma esiste da quando esiste Amedeo, da Amedeo in poi è sempre esistito questa storia qua. Ma grazie a Dio che esiste un corteggiamento, esiste anche uno scazzo tra due persone, esiste anche poi. E Faiano cosa disse? Il primo segnale che tu ti innamori quando dici quella è una stronza, e questo è il famoso aforismo di Faiano. È così, c'è niente da fare, non siamo fatti perfetti noi, siamo tutti persone che sbagliano e siamo dalla mattina alla sera a cercare di recuperare. Quindi queste cose qua, nel rapporto uomo-donna, non è che ci sta un decalogo, non è che questi possono dire di fare questo e quest'altro. A volte il tono di voce conta più della parola, lo sai. E comunque tu consigli a chi si trovi in una condizione di disagio semplicemente di alzare la voce, andare di là e dire... Ma no, di saper parlare, scusi, ma perché non lo dici a tua sorella? Perché tutti questi problemi non ti risolvi la mattina al bagno? Non so, tante cose che uno può dire, perché adesso non capisco perché uno deve stare lì imbambolata. Non esiste più oggi in un posto di lavoro gente che non è capace di usare... Di difendere la propria posizione. Ma caspita, sono poi solamente a fare questi lamenti. Dice, scusa, stai calmo, tranquillo. Poi quello che hai portato alla ribalta di questa avvocatessa è un caso limite di idiozia femminista, ma manco femminista, idiota e basta. Però ci sono qui ci sono le molestie vere, che poi tutto questo politicamente corretto va a scapito di quello che è veramente la violenza sulle donne, cioè quella che poi certo, diciamo, è quello, è tutto quando un altro. Quando la donna viene violentata, eccetera. E quello è tutto un altro piano. Quella è violenza, no? Non che uno ti dice, certo, ti fa un complimento. No, attenzione, infatti. Ma pensa solamente alla violenza che c'è nei, diciamo, nei due terzi del globo sulla donna. Anche in Italia, ma questo infatti è un altro capitolo e per fortuna qui si stava parlando in realtà di schermaglie sui social media. Grazie a Roberto D'Agostino che è stato con noi a Nessuna è Perfetta e mi raccomando, se lo incontrate per strada, ascoltatrici di Radio 24, fategli un complimento. Buona domenica Roberto. Ciao a tutti. Abbiamo parlato del libro Toglimi le mani di dosso, pubblicato da Chiare Lettere, e della giornalista freelance che nel libro, così come nel blog Il Porco al Lavoro, ha raccontato storie di molestie in un giornale di provincia. Noi siamo al telefono con Olga Ricci, è il suo pseudonimo, sentirete la voce alterata. Buona domenica Olga. In sintesi, che cosa è successo in quei 2 anni e mezzo che tu racconti nel libro, una vita di redazione piuttosto spiacevole, racconti? Buona domenica a voi. Sì, nel libro racconto quello che ho passato in 2 anni e mezzo, che è cominciato, diciamo, con un periodo di prova durante il quale sono stata invitata a pranzo, cena, colazione varie volte da questo direttore, che mi prometteva di parlare di lavoro e che invece poi mi parlava della sua vita privata e mi faceva domande sulla mia vita privata, quando io ho fatto capire che non volevo andare invece oltre al rapporto di lavoro, allora lui mi ha penalizzata mandandomi in una delle redazioni di questo giornale, che era una redazione più periferica. A quel punto io ho continuato a lavorare fino a quando poi lui ha iniziato a chiamarmi e a farmi capire che c'era la possibilità di essere spostata invece in una città grande. Io mi sono illusa che questo potesse essere possibile e così una sera sono andata a incontrarlo a un'altra cena e a quel punto lui, insomma, la questione si è tirata avanti per le lunghe e lui poi gli ha messo in atto il ricatto vero e proprio, che è stata una richiesta di andare a letto con lui in cambio di essere spostata, di avere un buon contratto. Io ho rifiutato e insomma ne ho subito le conseguenze, nel senso che sono rimasta nel posto dove ero e lui ha fatto credere ai miei colleghi che io invece fossi comunque una sua favorita, quindi ho subito anche, come dire, tutte le rabbie degli altri colleghi. E successivamente lui poi è tornato alla carica dopo un anno e mezzo, io a quel punto non ce l'ho più fatta e ho mollato. E quindi sei andata via da quella redazione? Ed era un atteggiamento comune questo, quello che tu hai riscontrato di capi redattori, giornalisti, quel che è, che pensavano di fare questo scambio, una collaborazione a una giovane giornalista e una cena o anche qualcosa di più di una cena? Sì, poi successivamente ho cercato, io già lavoravo prima, poi ho continuato a lavorare anche dopo, e quindi ho avuto un altro incontro con un altro capo redattore che aveva, insomma, era un caporedattore importante, che mi ha fatto capire che avevo la possibilità di collaborare con il suo giornale e anche lui voleva che uscissi a cena con lui e comunque me la metteva sempre sul personale, al punto che poi dopo 3 mesi di questo andazzo, ormai tra l'altro consapevole di quello che era successo precedentemente, io ho lasciato perdere e ho perso la collaborazione. E lui però era così, come dire, pieno del suo modo di pensare che questo fosse una situazione normale, da avermi raccontato, come dire, di essersi innamorato di una stagista con la quale era andato a letto, che aveva 25 anni, e che poi dopo, siccome la storia, chiamiamola così, è andata male, lui aveva fatto smettere di collaborare col giornale. Quindi la stagista era andata a letto con lui, ma questo non si era tradotto in un'assunzione, questo è il punto. Esatto, questo è il punto che cerco di far emergere anche dal libro, nel senso che secondo alcune studiose, come ad esempio Barbara Guttek, che era una sociologa americana, comunque avere dei rapporti sessuali o relazionali sessuali con un superiore non paga sul lungo periodo. Lei ha fatto un'indagine quantitativa su un numero abbastanza cospicuo di persone e ha visto che una grande percentuale di donne nel lungo periodo perde il posto di lavoro o è costretta ad andarsene. E non si può non essere d'accordo con i risultati alla quale è giunta la studiosa americana, non si può che essere d'accordo, soprattutto non si può che tenere presente che se un'azienda ti tiene a lavorare è perché porti un valore aggiunto, sei utile con il tuo lavoro. Se non sei sicura di quel che vali, allora è più facile che giochino con la tua insicurezza e ti invitino a cena. Questa è la mia opinione, pronta a sentire opinioni in dissenso. Scrivete se non siete d'accordo con me o se siete d'accordo con me. A nessuno è perfetta, @radio24.it, oppure mandateci un sms al 349-238-6666. Buona domenica e ricordatevi che il multitasking è una fregatura, perciò relax.